Ich hätte nur die Frage, wie an Herrn Alberigo, wieso dann eine Kirchengeschichte, die als Kriterium die Reform der Kirche hat, da kann man uns überlegen, ob das ausreicht, wieso denn die nach Jedin transkonfessionell ist. Ist denn nicht gerade dann, wenn ich mich dann auf einen strenger katholischen Standpunkt stelle, also dann die Anforderungen an die Reform noch eine viel größere, als wenn ich mich auf einen allgemein christlichen Standpunkt stelle? Scusi, ha capito che... Sì, sì, sì. Ma io credo che Iserlo abbia almeno in parte certamente ragione, cioè è vero che Jedin ha una inclinazione, si potrebbero fare alcune citazioni, a classificare la riforma protestante come rivoluzione e perciò porla fuori dell'orizzonte delle riforme della Chiesa. Tuttavia sarei anche perplesso se ritenere, sempre riferito a Jedin, questa come una conclusione, cioè se Jedin sia, come dire, definitivamente, ecco, condivido definitivamente questa posizione, questa elemento di valutazione per cui la riforma protestante sarebbe comunque solo una rivoluzione. Questo è un primo punto sul quale forse si può tornare, possono tornare anche altri. Ecco. Ancorché la domanda di Iserlo, se appunto la caratteristica transconfessionale del criterio della riforma della Chiesa sia riferibile a Jedin, non si può circoscrivere esclusivamente alla riforma protestante, mi pare ovviamente. Cioè mi sembra che non solo si potrebbe fare riferimento a tutta la grande gamma, alla gamma molto variata e variegata delle posizioni, poniamo, sia tedesche negli anni 20-30, sia italiane negli anni 20-30-40, di chi è in un atteggiamento fluido, incerto, ecco, ma uscendo dal XVI secolo e perciò uscendo da un periodo molto pertinente al problema, ma anche in cui forse la questione si pone in termini anche altamente schematici, proprio per la contrapposizione consolidata tra riforma cattolica e riforma protestante, o tra chiesa romana e riforma protestante, se volessimo semplificare. Ecco, io ho l'impressione, ecco, che si possa dire quello che io ho detto nella mia introduzione, ad esempio riferendosi sia a posizioni medievali, ma in questo caso penso soprattutto a istanze della Chiesa contemporanea, dove certamente è più pertinente, o perlomeno ha una pertinenza più evidente, parlare di transconfessionalità. Ecco, cioè mi pare che la posizione di Jedin, anche se meno facilmente esemplificabile, ecco, sui movimenti di rinnovamento delle chiese, non solo della Chiesa cattolica, nell'ultimo secolo, ecco, possa essere riferita a questa qualifica di transconfessionalità che io dicevo. Paolo Prodi? No, io mi innestavo su questa domanda in termini più generali con un'altra domanda, cioè ai colleghi tedeschi in particolare. prendo a base la discussione che c'è stata, per esempio, sulla rivista di storia e letteratura religiosa nel 69, sul problema di rapporto in Italia tra storia della Chiesa e storia del cristianesimo. Bolgiani ha fatto un... appunto lui potrebbe parlare lui stesso, parlerà, penso, spero. Ecco. In Germania è esistita una discussione del genere sul rapporto tra storia della Chiesa e storia del cristianesimo, e in che senso o in che modo Jedin è stato coinvolto in questa discussione? Questa è una domanda. Ecco. In secondo luogo, se appunto in Jedin, qual è il fattore che pesa? Che ha pesato nella sua posizione nei confronti della storia della Chiesa in quanto tale, cioè la sua la sua tendenza a una valutazione dell'aspetto istituzionale come aspetto di base, insomma, ecco, cioè nella distinzione della storia della Chiesa e del cristianesimo, quello che è caratteristico è l'attenzione al fatto istituzionale in Jedin, ecco, o invece una posizione di tipo puramente teologico, insomma. Questa è un po' la domanda che facevo, se i colleghi tedeschi potevano dare degli elementi su questo problema. Iserlo Albrigo, weil wir das, glaube ich, noch nicht ausdiskutiert zu sein scheint, aber wir können auch den Punkt, den Herr Prodi, der ja ein neues Problem bringt, vorziehen. Herr Albrigo, ich bin auch nicht so ganz überzeugt, dass für Jedin das Prinzip oder die Aufgabe der Reform das entscheidende Konstituenz für Kirche gewesen ist. Jedins These lautete, wenn ich ihn recht verstehe, jeder Historiker braucht, um seine Tatsachen zu sammeln, um aus dem unendlichen Meer eine Selektion zu betreiben, ein Prinzip. Für den katholischen Kirchenhistoriker ist dieses Prinzip die Kirche. Dass die Kirche stets eine zu reformierende ist, ist sicher. Aber ob diese Aufgabe der Kirche das Entscheidende ist, was über die Kirche der Theologe auszusagen hat und was daher auch wiederum das Prinzip ist, das der Historiker benutzt, um seine Tatsachen auszuwählen, das hat mich nicht ganz überzeugt. Es gibt freilich Zeiten, gewisse Epochen, in denen dies der Fall ist, zwischen 1450 und 1650, sein Vorschlag Zeitalter der Reform. Man könnte auch Gegenwart, 20. Jahrhundert sagen. Aber es gibt weite Bereiche, die er für außerordentlich wichtig für die Kirche gesehen hat, die darunter nicht fallen. Stichwort Mission. Nicht? Mission ist zweifellos nicht mit dem Schlüsselbegriff, mit dem Modell der Reform zu packen, es sei denn, man würde dieses Modell Reform inhaltlich so entleeren, dass es überhaupt nichts mehr aussagt. Nicht? Das scheint mir die Gefahr zu sein, denn eines, hat, glaube ich, Herr Iserlo richtig festgestellt, Jedin wollte nicht Christentumsgeschichte betreiben, sondern Kirchengeschichte. Das heißt also nicht einen Standpunkt der Deskription von außen, sondern einen Standpunkt des Verständnisses von innen her. Also einen theologischen Standpunkt, kein religionsgeschichtlicher. Ja, mi pare che abbia posto perlomeno due argomenti. Uno, il rapporto tra Chiesa e riforma della Chiesa come, se non ho capito male, come oggetto della storia della Chiesa, o se volessimo dire forse come ragione formale della storia della Chiesa. Ponendo così le cose, io sono d'accordo che l'oggetto, la ragione formale della storia della Chiesa è la Chiesa e non la riforma della Chiesa, soprattutto secondo Iedini in ogni caso. Sì. Iserlo ce l'ha ricordato con tante citazioni che tutti conosciamo e che sono indiscutibili. Ma la mia, il mio punto di vista non è questo, non è questo sicuramente, ma è che la proprio direi, mi pare che Iedini emerga proprio perché la Chiesa è l'oggetto, secondo lui, della storia della Chiesa, emerga un criterio storico, perciò non della Chiesa, ma della vita della Chiesa, e soprattutto della percezione che lo storico, che gli storici hanno del passato della Chiesa, emerga questa centralità o questa rilevanza, non unica, ma mi pare molto forte, della storia della Chiesa. Perciò è certamente un criterio, come ho detto ripetutamente, un criterio di carattere storico e non un criterio metastorico. Io sono, poi mi chiedo, ma questo mi dirige verso le cose che ha detto Iserlo, mi chiedo in realtà, forse un po' con Convenius, che cosa si realizza nel lavoro di Iedini, nell'opera storica di Iedini, nelle migliaia di pagine della biblioteca Iedini, ecco, dove si esprime, in che cosa questa impostazione di assumere dalla teologia il concetto di Chiesa, ecco, ha modificato. Ma però, adesso questo è un problema che poi su quale si può tornare, d'altronde, ecco, mi evoca tante conversazioni con Iedini che faccio fatica adesso a riproporlo. Ecco, qui ne sono. Però tornando al rapporto tra Chiesa e riforma della Chiesa, ecco, mi sembra che il livello sul quale nell'opera di Iedini i due riferimenti si pongono è sicuramente diverso. Se questo lei voleva dire, io sono perfettamente d'accordo. Non c'è dubbio che per Iedini la Chiesa è l'oggetto della storia della Chiesa e che la riforma della Chiesa è una delle caratteristiche di questa storia. Non c'è dubbio. Io direi una delle caratteristiche maggiori di questa storia, non certo una caratteristica appunto secondaria e neppure episodica, e questo porta a molte conseguenze, perché se avessimo avuto tempo naturalmente ecco, credo che si potrebbe vedere come l'assumere, ecco, il riferimento, la riforma della Chiesa come criterio maggiore nel fare storia della Chiesa voglia dire, ecco, implichi diverso atteggiamento nei confronti di eventi, di circostanze, di iniziative, di spinte che lo storico talora può essere indotto a vedere in un'ottica molto diversa se non tiene conto di questo criterio. Questo è il... Però adesso io mi scuso, ho perso di vista l'ultima parte invece delle cose che lei diceva, di cui mi sembrava... Lei non vuol dire più niente. Sufficient. Per il momento. Die Antwort auf die Frage Prodi, ob es eine Diskussion in Deutschland auch gegeben hat über die Frage Kirchengeschichte und Geschichte des Christentums, also Religionsgeschichte. Ich glaube, es ist das ein Ausgangspunkt aus einer ganz speziellen, konkreten italienischen Geschichte, Situation, ich würde sagen, einer Universitäts eine ganz anderen Situation der Kirchengeschichte und der Theologie an, innerhalb der Institutionen. Ich glaube, dass für Jedin und seine ganze Bildung die Fragestellung sehr wichtig war, die sich aus der deutschen Situation ergeben hat, theologische Fakultäten an staatlichen Universitäten. Etwas, was es ja in Italien nicht gegeben hat. Und in Italien gibt es dann diese Seltsamkeit, dieses für deutsche Verhältnisse wieder seltsame Situation einer Theologie, die nur in dem Sinn, was in dem Sinn eigentlich betrieben wird oder in diesen Institutionen betrieben wird, die Jedins Lehrer, ich bin ja jedenfalls und Topic Sebastian Merkel, manchmal etwas boshaft die theologischen Hausschlachtereien genannt hat. Das heißt also, nur in Priesterseminaren und außerhalb der staatlichen Unterricht und daneben dann an den staatlichen Universitäten die Kathedre di Storia del Cristianesimo mit einer ganz anderen Position. Es ist also ein ganz anderes Verhältnis zwischen, glaube ich, zwischen Profangeschichte und Kirchengeschichte, die sich schon aus diesen Institutionen ergibt. Bitte, Sie wollten das sagen. Herr Ganzer hatte sich gemeldet. Herr Ganzer, ja. Zu der Frage von Herrn Kollegen Prodi, ob in Deutschland eine Diskussion diesbezüglich war. In geringem Umfang ja. Es hat vor einigen Jahren die Tübinger Theologische Fakultät ein Heft herausgegeben von der Tübinger Theologischen Quartalschrift und da hat der frühere Tübinger Althistoriker Vogt, der ja bekannt ist für seine Option für eine Universalgeschichte, auch hatte einen Beitrag und katholisch ist. Und katholisch ist, wo er fordert, dass auch die Kirchengeschichte sich im Sinne der Universalgeschichte ausweite und plädiert dann für eine Christentumsgeschichte auf höchster Ebene. Wobei er allerdings, wenn ich ihn recht verstehe, und ich kenne ihn ja auch persönlich, natürlich nicht die Kirchengeschichte dadurch ablösen wollte durch eine Christentumsgeschichte. Aber er meinte, man solle das Ganze doch öffnen und hier die universalhistorischen Aspekte auch einbringen. Potevo, io credo che quando Jedin distingueva appunto storia da Geschichte des Christentums oder Kirchengeschichte, intendesse per Geschichte des Christentums una storia, vuol dire, profana, vista dall'esterno, come aspetto della religiosa geschichte, mentre l'altra era condizionata in certo senso formalmente dall'oggetto e dal rapporto col suo fondatore nella sua. Ora, rispetto anche alla situazione italiana, credo che la situazione italiana dipende per molta parte dalla situazione francese, prima di quella, la storia del cristianismo, che è legata, credo, nelle sue origini, non sono sicurissimo, mi pare in ogni caso che la sua fortuna è legata come espressione al momento modernista, in cui appare, c'è questa distinzione, in Francia una storia in histoire de l'Église è piuttosto una storia, no, voglio dire, una histoire di cristianismo rispetto all'histoire de l'Église, la storia del... Come? Comunque in questo però mi pare che prende un senso anche accademico in questo momento più notevole, perché l'histoire del cristianismo è essenzialmente una storia, come dire, religiosa, così la storia del fermento cristiano, il fatto nuovo, innovativo, mentre l'histoire de l'Église si configura piuttosto come una storia istituzionale, in questa distinzione specifica un po' del momento fra lo spirito e la lettera, quasi che le istituzioni fossero la lettera o l'aspetto esterno di un fermento interno. Per esempio, mi pare che il tentativo supremo di un Loisy di saldare nel libretto, nel primo dei libri, l'Evangile, l'Église, sia stato appunto quello di mostrare in questo supremo sforzo apologetico, in quel certo momento, la continuità fra il seme e il frutto, fra l'origine e le conseguenze, fra l'Evangelo e la storia della Chiesa, mostrando tuttavia che, e la sua frase lo riassumeva, Gesù prêche le royaume et c'est l'Église qui est venue, come dire, la predicazione era quella del regno e è venuto la Chiesa, che è dipendente a sua volta però da un'impostazione della teologia protestante e liberale, particolarmente Hofferbeck, nella distinzione fra Urchristentum, che è il vero cristianesimo, che però finisce praticamente con l'anno 100, dopodiché comincia quel aspetto, come dire, del tutto così, altra cosa che misto alla cultura, naturalmente, che è la Chiesa in un certo senso. E questo si riflette allora sia nel modernismo sia nella posizione della teologia, almeno degli storici protestanti, anche di lingua francese, non so, Gauguin per esempio era l'uomo che diceva io mi occupo di storia del cristianesimo, dopo l'anno 100 per me non è più cristianesimo, è un'altra cosa, insomma, questa fondamentale distinzione per cui il cristianesimo è solo l'Urchristentum, che è escatologico, apocalittico, eccetera. Dopo comincia la storia della Chiesa, cioè della normalizzazione istituzionale di certi elementi che sono usciti all'origine e che poi diventano struttura, diventano con quest'idea che le strutture fossero, come dire, la negazione dello spirito, eccetera. In Italia la cosa credo dipende come impostazione, almeno all'origine, questa distinzione fra storia del cristianesimo e storia della Chiesa a livello, dico, accademico, dipende, è tributaria alle origini di una distinzione più o meno esplicita di questo genere. Un caso che mi è sembrato sempre significativo, Abriss der Kirchengeschichte di Heusse, che viene tradotto in italiano come un breve manuale di storia del cristianesimo, perché dire, fatto da un protestante e immessa nel circolo, nella editoria che serve soprattutto ai valdesi, eccetera, presentarlo come una storia della Chiesa avrebbe fatto pensare immediatamente che era la Chiesa cattolica, eccetera. Quindi la Kirchengeschichte diventa storia del cristianesimo per l'adattamento italiano. Mi pare che questa è la stessa storia del cristianesimo di Buonaiuti, che è continuamente questa storia di, come dire, di una storia continua di speranze e di tradimenti, di, se vogliamo, in un certo senso di evangelismo e di istituzione che la soffoca continuamente. Ora, se l'origine, diciamo, delle titolature accademiche delle nostre discipline sono motivate all'origine da questa distinzione, credo che però questa è una distinzione molto datata. Io non so in che misura oggi di fatto uno storico del cristianesimo, uno storico della Chiesa potrebbero uno dimenticare le istituzioni, la storia degli elementi istituzionali, e l'altro dimenticare, come dire, la spiritualità, eccetera, come se fossero due cose che possono distinguersi. Quindi mi pare che all'origine c'è una motivazione legata a una certa situazione culturale che poi così rimane perché le cose certe volte rimangono, insomma, ma le distinzioni di fondo non mi pare che siano in ogni caso più le stesse, ecco, alla ricerca di uno specifico in Italia oggi di cosa qualifica una storia del cristianesimo e cosa dovrebbe qualificare una storia della Chiesa. Mi sembra che ci troveremmo in grosse difficoltà. Sì, è apparso anche a livelli di concorsi certe volte questa distinzione molto strana, ma io credo che il fondamento, come dire, metodologico dal punto di vista storiografico non c'è. Invece in Germania ho visto apparire anche, certamente mi pare quella di Tartmüller, una Geschichte des Christentums, che è un tentativo, non so, di rimescolare un po' le carte, ecco. Ed è, mi pare che sia anche una ripresa teologica in Pannenberg, alcuni di questi, mi pare che c'è una ridiscussione di questo tema. Dottor Mazzone? Io ho una domanda molto, un'osservazione molto breve sul tema più che altro sollevato davon zu retten werden. Diskussione intorno alla relazione della tribù. Mi è venuta in mente questa definizione di Droysen che Yedin utilizza molto spesso, sì, e chiama molto spesso, sulla storia come autocoscienza. Autocoscienza, certo. E probabilmente per un oggetto storico, come io credo che sia la Chiesa, l'autocoscienza, la consapevolezza, trova la consapevolezza di sé, trova forse il suo momento principale, il suo momento forte, intorno ai momenti di crisi, ai momenti di definizione di una via d'uscita dalle crisi, un ripensamento intorno al proprio essere. E allora, se noi pensiamo a un concetto di forma, come a un concetto in sviluppo, che non implica automaticamente un'idea di progresso, ma un concetto di modificazione, di sviluppo, forse possiamo riprendere la definizione di riforma come criterio della storia della Chiesa sotto quest'altro aspetto, allargando forse questa definizione, secondo me, sotto questo aspetto, cioè un criterio che secondo me in Yedin è molto forte, è probabilmente questo: la crisi e la risposta della Chiesa, che la Chiesa sa dare a questa crisi, interrogativo, riforma, ecco, probabilmente mi sembra che un criterio di questo genere, cioè assumere come criterio forse dell'interesse principale di Yedin il problema della crisi e risposta che la Chiesa sa dare o immagina alla crisi, e che poi sostanzialmente, secondo me, è riforma, potrebbe essere un modo per riunificare un momento i termini della discussione. Professor Lenzenweger. Die Frage nach der Behandlung der Religionsgeschichte und der Geschichte des Christentums, die bringt uns ja wahrscheinlich in einer anderen Hinsicht doch auch wieder ein Stück weiter, nämlich: Wer darf diese Religionsgeschichte treiben? Wer darf sich beschäftigen mit der Geschichte des Christentums? Und jetzt kommen wir zur Voraussetzung, die wir aus dem Munde von Erwin Isalo gehört haben, für den Kirchenhistoriker, und zwar für den, der seine hauptsächliche Aufgabe darin sieht, die Geschichte der katholischen Kirche darzustellen. Kann man wirklich aus den Schriften und aus den Äußerungen von Luther Thierin entnehmen, dass er der Auffassung war, nur ein Katholik, nur ein überzeugter Leber, Katholik, der was auch lebt, könne adäquate katholische Kirchengeschichte bereiten. Ich könnte mir vielmehr vorstellen, dass bei der Umschätzung die Thierin auch Historikern anderer Konfessionen entgegengebracht hat, dass er das nicht in so ausschließlichem Sinne verstanden hat. Denn das hieße ja, aufs Konkrete gesprochen, ein katholischer Historiker könnte auch dann niemals zum Beispiel die Geschichte der Reformation sachgemäß darstellen, weil er nicht auch in der anderen Position steht. Meinte er nicht viel mehr, er müsste den festen Willen haben, objektiv zu sein, die Tatsachen zu untersuchen nach der historischen Methode und die Hilfswissenschaften der Kirchengeschichte kennen. Das ist jetzt nicht vom Kirchenhistoriker hochmütig gegenüber den anderen theologischen Disziplinen gesprochen, aber ein Mann, jemand, der die Geschichte der katholischen Kirche verstehen will, der muss natürlich auch etwas verstehen vom Kirchenrecht, der muss auch etwas verstehen von der Theologiewissenschaft, der muss mit den Problemen der Dogmatik, ja auch der Moral vertraut sein. Das ist ein Zeichen, dass er Kirchengeschichte betreiben kann, auf Kirchengeschichte der katholischen Kirche. Ich könnte mir also vorstellen, dass man diese Äußerung nicht im strengsten Sinn des Wortes ausschreiben, da vielleicht habe ich die Gäste richtig verstanden. Ja, also ich muss sagen, dass Yedin sehr oft seine Hochachtung äußert gegenüber dem, was andere nicht-katholische Gelehrte zur Erkenntnis der Kirchen, der Geschichte der katholischen Kirche beigetragen hat. Er nennt dann Kehr, ich würde so aus meiner eigenen... Harnack nennt er, er nennt ja noch Fallen, ja. Ich würde dann zum Beispiel Grundmann nennen, also ein großartiger Beitrag für die Kirchengeschichte. Aber er besagt sehr stark, ihre Kirchengeschichte in seinem Sinne kann nur der treiben, der sich auf den Boden stellt. Und so weiter, also ich habe da schon etwas abgeschwächt. Ich kann jetzt das Zitat nicht genau finden. Er sagt dann, woher weiß ich denn überhaupt, was Kirche ist, was katholische Kirche ist, wenn nicht eben aus dem Glauben heraus und so weiter. Also in seinem letzten Beitrag hier in der Internationalen Zeitschrift ist er da sehr massiv. Ulianic, ma vorrei dire qualcosa soltanto marginalmente rispetto al problema della storia del cristianesimo, per aggiungere a quanto diceva Poggiani, che a mio avviso si può cominciare a parlare di storia del cristianesimo nella seconda metà del Settecento, e c'è la documentazione per questo, sia in Inghilterra come in Francia, e si assiste al tentativo di scorporare una storia del cristianesimo da una visione confessionale della storia della Chiesa, proprio per enucleare quelli che sono gli elementi universali del messaggio evangelico. Quindi direi, sul piano della ricostruzione storica di una storia del cristianesimo, mi pare che si debba andare molto più indietro che non al modernismo. Per quanto riguarda il discorso fatto da Alberico, vi avrei alcune domande da porre. E cioè, poniamo che uno dei criteri maggiori della storia della Chiesa di Biedin sia il concetto di riforma. È chiaro che il concetto di riforma è un termine e concetto polivalente, direi addirittura equivoco, proprio perché multivalente e polivalente. Ora, è possibile puntualizzare nell'ambito di una dimensione in cui la societas perfetta, come diceva Alberico, non è intesa come coincidenza tra essere e dover essere, in Yedin certamente, ma c'è anche un diritto dell'esistente, che come ha detto Alberico è una delle discriminanti tra riforma e rivoluzione. Posti questi due elementi, io mi chiederei qual è lo spessore effettivo che Yedin dà al concetto di riforma. Riforma rispetto a che cosa? Che cosa può essere riformato in questa realtà della Chiesa? Qual è lo spessore possibile di riforma? Si tratta semplicemente di uno spessore morale, disciplinare, e quindi direi uno spessore abbastanza superficiale, o di uno spessore più incisivo? Questa è una domanda. Vorrei porre ancora un'altra domanda a Isaac. Sì, è fuori discussione, tutto quello che lui ha detto lo conosciamo, Yedin lo ha scritto, ma ha detto all'inizio che Yedin era contrario a fare troppa teoria, troppa filosofia sulla storia della Chiesa. Allora vorrei chiedere, il modo effettuale di fare storia della Chiesa di Yedin corrisponde veramente a questi presupposti? Oppure Yedin nella sua storiografia è molto vicino a un tipo di impostazione laica, di concezione della storia reale, della storia narrata, della storia effettuale. Ma fino a che punto Iserlo vede realizzato nel fatto, nelle narrazioni della storia della Chiesa di Yedin, questo principio che Yedin ha teorizzato così giustamente, in modo così puntuale e in modo forse anche rispetto alle orecchie di un uomo di cultura o storico oggi, forse eccessivo. Ja, die Frage ist ja öfter gestellt worden, wie äußert sich das? Das habe ich ja auch vorhin gesagt, dass es immer sehr schwer ist, über die allgemeine Grundhaltung hinaus nun im Beispiel zu zeigen, wo sich das nun äußert. Aber hier wende ich schon mal den Gedanken der Reform anspreche. Wenn ich etwas reformieren will, dann muss ich ja ein Bewusstsein haben von der Forma, auf die ich zurückführen will. Und dann muss er aber ein ganz konkretes Bild der Kirche haben. Ich brauche nicht so ein grobes Beispiel zu nennen wie Alexander der VI. Da können Leute unter dem Gesichtspunkt des Mäzens den großartig finden und auch unter dem Gesichtspunkt der politischen Geschichte als Organisator des Kirchenstaates kann der großartig sein. Aber wenn ich dann ein konkretes innerkirchliches Verständnis des Papsttums habe, muss ich dann sagen, dass sich das restlos dann vielleicht wahrscheinlich verwerfen. Oder Lord spricht von der dogmatischen Unklarheit, die zur Reformation als Spaltung doch mitgeführt hat, als Ursache der Reformation. Dien spricht von der doktrinären Verwirrung. Nicht? Damit, mit diesen Begriffen, hat er doch schon ein ganz klares Bild von dem, was er für katholisch hält und was dann in Verwirrung gerät. Vom Gesichtspunkt des Geschichte des Christentums her kann dann Luther durchaus innerhalb dieses Christentums stehen und er kann auch Recht haben, sich noch für katholisch zu halten, obwohl er inzwischen schon Positionen eingenommen hat, die nach Lorz und Jedin also doch wirklich unkatholisch sind und deshalb auch dann schon Spaltung bedeuten. Nehmen wir dann das viel zitierte Wort von Jedin, nichts hat so sehr zur Spaltung geführt, als die Illusion, dass diese Spaltung noch nicht vorlag. Wann die vorliegt, weiß ich doch nur von einem Bild des Katholischen, macht das noch so breit sein, noch so soll große Bandbreite haben, innerhalb dessen man nur katholisch sein kann, geht man darüber hinweg, etwa in der Leugnung der Autorität der Konzilien oder des Lehramtes, dann ist das nicht so. Also ich glaube schon, dass sich da eine ganze Menge Beispiele zeigen lassen, wo Jedin eben solche theologischen Gesichtspunkte in seine Betrachtung einführt. Und ich halte das für ehrlich, dass man das sagt. Ist ja interessant, dass gegen Consemius, der ja den Beitrag geschrieben hat, Kirchengeschichte als nicht theologische Disziplin, dass gegen diesen Consemius der Kollege Brox in Regensburg sagt, dass eben Consemius selber nicht ernst macht mit seiner nicht theologischen Betrachtung der Geschichte. Ich zitiere nur einen Satz. Es stellt sich dabei heraus, diese nicht theologische Disziplin Kirchengeschichte ist bei Victor Consemius durch und durch theologisch, weil die entscheidenden Schritte ihrer Interpretationstätigkeit und ihrer Konstituierung vom Zusammenhang und Sinn theologische sind. Brox meint dann, der Consemius lehne nur theologisch ab im Sinne von systematisch theologisch und so weiter. Also ich wollte sagen, dann ist es immerhin interessant, dass hier den Gegner, kann man jetzt sagen, von Jedin, der eine nicht-theologische Kirchengeschichte will, dass den ausgerechnet der Vorwurf trifft, er bringe ja doch gegen seine eigene These immer wieder theologische Gesichtspunkte in seine Geschichtsbetrachtung ein. Also Herr Ulianitsch, ich glaube schon, dass man, wenn man jetzt da genau analysiert und die 2000 Seiten Konzilsgeschichte untersucht, dass da bei Jedin wirklich auch das nach sich nachweisen lässt, was er selber theoretisch als Sinn und Aufgabe der Kirchengeschichte umschreibt. Ein Beispiel bringt er dann ja selbst mit seinem Franz von Assisi. Ich habe andere Beispiele gebracht. Vorher war also der ganze... Ja, mir scheint bei der ganzen Diskussion, wir haben ja in Deutschland auch schon beim Historikertag war die kirchengeschichtliche Sektion, eine ganze Sektionsveranstaltung gehabt, mir scheinen einige Kurzschlüsse drin zu sein. Natürlich setzt das nicht voraus, wenn ich die Kirchengeschichte von innen betrachte, dass ich auch existenziell mich auf diesen Boden stelle. Und da darf natürlich nicht so etwas herauskommen, als ob da nur einer, der persönlich gläubig das bejaht, das so betreiben dürfe, nicht wahr? Aber man muss, das ist natürlich eine Entscheidung im Vorfeld, die nicht methodisch ist, sondern die im Vorfeld, das ja legitim ist, ich meine, wir wissen ja heute, dass es keine voraussetzungslose Wissenschaft gibt, aber darüber muss man natürlich reflektieren und darüber auch Rechenschaft ablegen. Aber wenn Grundmann, wenn diese Leute zitiert werden, die so wertvolle Beiträge liefern, so haben sie natürlich als Gegenstand, nicht wahr, eine Konzeption übernommen schon, ob existenziell, das ist völlig anders, aber methodisch eine Konzeption übernommen von der Kirche, die vom Internen her ist. Denn wir meinen immer, nicht wahr, die sogenannte Profangeschichte sei diesbezüglich nicht festgelegt. Man kann ja keine Seite Geschichtsschreibung schreiben, ohne dass ich nicht ein ganz konkretes Bild, ohne dass ich nicht eine Konzeption habe. Sonst ist es nur eine Aneinanderreihung von Fakten. Und darüber muss man sich natürlich Rechenschaft ablegen und sagen, ich setze diese und diese Konzeption voraus. Wir haben etwa in der deutschen Geschichte am eklatantesten bei den unterschiedlichen Darstellungen jetzt etwa der marxistischen Geschichtsschreibung, von welchem Leitbild die herkommen, und die sogenannte bürgerliche oder liberale Geschichtsschreibung. Also mit anderen Worten, auch der profane Historiker hat bei jeder Seite Geschichte, die er schreibt, eine Konzeption, eine Vorstellung. Nicht wahr? Wie er den Gegenstand wusste. Und da wurde etwa beim Historikertag über Jedin auch gesagt, von Altendorf in Zürich, dem evangelischen Kirchhistoriker, der zunächst polemisiert hat gegen Jedins Einleitung, sein Verständnis von Kirchengeschichte, dann aber sagte, aber wenn ich dann seine Werke ansehe, so finde ich darin, dass er das überhaupt nirgends so realisiert, sondern das ist durch und durch, wie Jedin selber sagt, nicht wahr, eine Kirchengeschichtsschreibung, die also ohne Vorurteile und zurechtbiegend ist. Das sieht meiner Ansicht nach das Problem überhaupt nicht, denn ich sage, jede Seite Geschichte, die ich schreibe, setzt ja etwas voraus, ob ich sage Reform oder Dekadenz, ob ich sage Aufgang, Niedergang und so weiter, das setzt ja schon irgendetwas voraus. Und da scheint mir bei der ganzen Diskussion, dass man ansetzen muss, dass man sagt, ich reflektiere und ich gebe Rechenschaft über meine Konzeption, und die muss dann nachprüfbar sein. Insofern ist es dann wieder im Bereich des Nachprüfbaren und nicht irgendeines imaginären, existenziellen, das einer vollzieht oder nicht. Aber man muss nachprüfen können, diese Vorstellung von Kirche intern setze ich voraus und daran messe ich, und dann entwickle ich das, wie etwa Grundmann mit seinen religiösen Bewegungen des Mittelalters. Domanda, scusa se torno un passo indietro e se parlo come un uomo che ha consumato la sua vita in quella che il presidente chiamava di Hausschlachterei, la macelleria domestica della storia della Chiesa, cioè la scuola dei seminari. Non l'ho chiamato io, era Verdi. No, mi piace l'espressione, la doppia nonna scuola. Ma ecco, sulla faccenda che differenza tra storia del cristianesimo e storia della Chiesa, a me almeno io la sento un po' così, e vorrei portare la domanda o almeno aggiungere anche l'impressione che storia del cristianesimo mi pare che dice sempre qualche cosa di più astratto, più generale, più inafferrabile, come si dice storia dell'illuminismo, storia del rinascimento, storia dell'umanesimo, storia del socialismo, se vogliamo così, no? Fare il medesimo discorso rispetto al cristianesimo si può, è legittimo, però lo storico della Chiesa sente che qui manca una prospettiva che è fondamentale, adesso direte voi se è teologica o se è storica, cioè quella di quell'organismo che per esempio in Sant'Ireneo nella sua visione archeologica è dentro così forte, no? Di quell'organismo che è appunto la Chiesa, che essa poi a sua volta costituisca un problema e così via, insomma, che non sia tanto facilmente inquadrabile o riducibile alle scritture, eccetera, questo è un altro discorso, però l'idea di qualche cosa di estremamente concreto, di estremamente organico, vero, che appunto presume, e se per certi tempi anche i cristiani stessi credono di fare storia della Chiesa e fanno storia del cristianesimo, ritengono che sia lo stesso, ma però se storia del cristianesimo o storia della Chiesa, forse è da mettere su quel piano, su quel conto di una volatilizzazione della coscienza della Chiesa, che per l'epoca moderna è un fenomeno abbastanza diffuso e sul quale Iserlo ha portato anche un contributo molto interessante in quel volume, cos'è, Coscienza della Chiesa, in italiano è anche tradotto dalla Morcegliano. No? No, bene, questo mi pare che forse qui, anche a questo fine, il modo di intendere la cosa da parte di Elina ha giocato e gioca un ruolo e ci ha aiutati senza dubbio a sentire, a trovare la Chiesa, pur con tutta la sua problematica, come appunto un organismo concreto. E a questo punto, se mi è lecito aggiungere, la mia impressione riguardo a questa parola, ma la dico come una parentesi, non per aprire su questa una discussione, su questa parola, la socie, Chiesa Societas Perfecta, dico la verità che io, se ricordo proprio il concetto con cui ci è stato comunicato all'Università Gregoriana in quel tempo, non mi ritrovo assolutamente in quello che sotto questo nome, Chiesa Societas Perfecta, viene detto e ridetto anche in altissimo loco oggi, perché a noi veniva detto, io non l'ho mai intesa così e mai mi riconosco in questa definizione, pertanto, perché Societas Perfecta a noi veniva presentata la definizione allora, ricordo Padre Lograsso, le lezioni tecniche appunto di diritto pubblico della Chiesa, non nel senso che essa presumesse di avere la perfezione in nessun modo, perfezione morale, neanche una perfezione giuridica particolare, ma solo nel senso che essa ha dal suo fondatore in sé stessa quelle risorse che le sono necessarie per sussistere fino alla fine dei secoli, cioè quelle capacità di conoscere l'autentico senso del Vangelo, il vero pensiero di Cristo, eccetera, e anche di autoguidarsi da se stessa, dal proprio fondo, senza doverlo riprendere, doverlo ricevere, doverlo andare a prendere da altri elementi, lo Stato o così via, altre cose che non siano la Chiesa, questo senso di autonomia che Bono non applicava altro che appunto il concetto della società autonoma aristotelica, no? Questo devo testimoniare tutte le volte che sento toccare questo concetto, perché insomma a noi veniva insegnato così, se forse anche nella Chiesa altri intendevano altro, insomma io non ho mai inteso in altro modo che questo, che ripeto anche nella macelleria domestica di cui ho accennato prima, l'ho sempre precisato in questi termini. C'è il fatto che non solo la Chiesa è la società sperfetta, ma anche lo Stato, che sì, tutte e due sono due società sperfette, e noi sappiamo quanto lo Stato è anche imperfetto. Insomma, il concetto agostiniano, no? Nochmal bei dieser Antithese Kirchengeschichte und Geschichte des Christentums. Wenn dabei gemeint ist, dass Kirchengeschichte sich nicht nur mit der Kirche qua Institution beschäftigt, und aber dabei Institution mit dem richtigen Verständnis von Ecclesia, von Societas Perfecta, sondern sich auch beschäftigt oder vor allem beschäftigt mit der Kirche als Volk Gottes, damit auch mit der sogenannten Basis, und damit auch Gegenstand ist, alle die charismatischen Bewegungen in der Kirche, die zum Teil in die Häresie abgedrängt werden, zum Teil dann aber auch von der Institution aufgegriffen werden, dann ist es sicherlich eine Forderung, die wir allgemein akzeptieren würden, als dass man etwas weiter den Begriff Kirchengeschichte nehmen soll. Aber wenn hier das gemeint ist im Sinne von Religionsgeschichte, und dass man gemeint ist, auch in dem Sinne, dass man nun ganz in gleicher Weise alle anderen religiösen Bewegungen und Religionen mit einbezieht, die sich christlich nennen, dann glaube ich, dass man doch hier Kirchengeschichte sehr stark vom Geschichte des Christentums abheben soll. Das tut ja Jedin auch in seinem Aufsatz Kirchengeschichte als Theologie und Geschichte. Er macht ja hier den Unterschied zwischen Kirchengeschichte an theologischen Fakultäten und den Lehrstühlen für Geschichte des Christentums an ihren italienischen Universitäten. Da sagt er hier, einige von ihnen, also von den Staatsuniversitäten mit dem Lehrstühlen Geschichte des Christentums, einige von ihnen sind mit gläubigen Katholiken besetzt, mit denen ich befreundet bin. Ihr gläubiger Standpunkt befähigt sie, Tatsachen und Ereignisse der Kirchengeschichte sachgemäß zu deuten, aber dadurch wird die Geschichte des Christentums noch nicht Kirchengeschichte. Also da ist der andere Unterschied. Herr Brudi, die Diskussion in Deutschland geht nicht unter dem Stichwort Kirchengeschichte oder Christentumsgeschichte, sondern ist Kirchengeschichte eine theologische Disziplin? Das heißt also, die Fragestellung ist etwas anders. Das Problem ist aber ähnlich. Ich möchte aber jetzt noch ein zweites sagen. Ich glaube, wir müssen bei den Diskussionen uns darum bemühen zu unterscheiden, und das ist schwer, das können wir alle nicht, zu unterscheiden, ob wir über Jedin sprechen oder über unsere in Tradition und Auseinandersetzung mit Jedin gewachsenen, geklärten und ungeklärten Auffassungen über Kirchengeschichte. Zu verstehen Jedin aber. Und das geht natürlich, da wir alle nur einen Leib und eine Seele und einen Geist haben, geht das bei uns, läuft sehr stark ineinander. Ich glaube, das ist doch gar nicht schlimm, wenn der liebe Gott vollkommenere Menschen gehabt hätte, dann hätte er die Schöpfung anders gemacht. Das hat er nicht getan. Wir müssen also mit dieser Unvollkommenheit fertig werden. Und ich glaube, wir kommen ein Stückchen weiter, wenn wir uns überlegen, in welche wissenschaftstheoretische Situation Jedin als junger Mann hineinkam und welche, das sind also die 20er Jahre, und was sich seitdem bis Ende der 70er Jahre getan hat. Der Student Jedin hat zum Beispiel selbstverständlich in München Marx gehört und Joachimsen gehört. Das heißt, er ging zu protestantischen Historikern. Und er hat später sogar gesagt, ich bedauere eigentlich, dass ich den und den katholischen Historiker gar nicht gehört habe. Das waren aber mehr Zufälligkeiten. Was ihn aber in den 20er Jahren herrscht in Deutschland als Wissenschaftstheorie der Geschichte, noch bei sehr vielen ein recht unkritischer Positivismus vor, der meint, es ist in Deutschland nicht so schlimm gewesen wie in Frankreich, aber der meint, wie es bei Saint-Jobos steht, ich brauche mir nur die Fakten, die Quellen anzusehen und die organisieren sich dann von selbst und führen nachher zu einer Aussage. Das war die eine Position. Und ein Teil bezeichnete diesen Positivismus zugleich als Historismus. In der schillernden Vokabel Historismus, stark aber schon in den 20er Jahren und bis heute mindestens so viel 50 Bedeutungen wie in der Vokabel Sozialismus. Die beiden Grundbedeutungen heißen entweder historische Methode seit dem 17. Jahrhundert oder Historismus als Weltanschauung, als eine Philosophie, als eine Form der Sinngebung oder Sinnsuche für Leben. Historismus als Weltanschauung hat Jedin nie gehabt. Das brauchte er nicht. Er bezog seine Weltanschauung aus anderen Quellen. Brauchten auch die katholischen Historiker nicht zu haben. Historismus als Weltanschauung war im Wesentlichen verbunden mit dem deutschen Kulturprotestantismus. Deutsch Meinecke. Und wenn wir das jetzt auf die Fragestellung, die in den beiden Referaten heute Vormittag kam, einmal transponieren, dann ist zwischen den 20er Jahren und den 70er Jahren in der deutschen Wissenschaftsdiskussion eindeutig klar geworden, was zum Beispiel die Görres-Gesellschaft immer behauptet hat: Geschichte ist keine voraussetzungslose Wissenschaft. Ich brauche metahistorische Vorwegannahmen a priori, um überhaupt nur eine Frage zu finden, um die Auswahl der Begriffe und Modelle, die ich benutze, bestimmen zu können, um zu erklären, wann ich mein Begründungsverfahren abbreche und um schließlich ein Urteil zu finden. Und von daher kommen jetzt einige Fragen, mit denen man, glaube ich, hat man einige Dinge, an denen man prüfen kann, ob der Begriff der Reform, bei dem es dann ja nicht genügen würde zu sagen, er ist eines der wichtigen Gesichtspunkte, sondern man müsste dann die Wichtigkeit dieses Gesichtspunktes mit der Wichtigkeit anderer Aspekte wieder konfrontieren, ob das eigentlich ein historischer oder ein metahistorischer Begriff ist. Verstehen Sie? Und ich meine, Reform ist mehr ein mehr ein metahistorischer Aspekt, unter dem ich Kirchengeschichte sehen kann, als ein Modell, von dem ich historisch nachweisen kann, dass es ein für die Geschichte der Kirche Fundamentales ist. Una precisazione, se è possibile, per quanto riguarda la Società Perfetta, di cui appartiene agli elementi del diritto canonico talmente fondamentali che è evidente se la Societas Perfecta viene intesa in un certo altro modo significa che è virgolettato. Ecco, io l'ho ricordato virgolettato quanto Grigo aveva detto virgolettato evidentemente, ma senza voler dire che non esiste quella definizione della Societas Perfecta del diritto canonico, del codice diritto canonico, che è talmente fuori discussione che sarebbe un'offesa presupporre la non conoscenza di una simile dimensione. Sì, comunque su questo punto che non solo si deve ricordare che Chiellini scriveva nella relazione al Congresso Internazionale di Scienze Storiche, cioè che è pur sempre un concetto che nasce con Bellarmino e perciò non è in fondo così connaturale alla Chiesa come ci si vorrebbe dire. Da un lato, e dall'altro lato che certamente c'è una, basterebbe riprendere in mano, ecco, qualche pagina dello Ius Publicum Ecclesiasticum di Ottaviani per rendersi conto del tipo di corollari che a quella proposizione venivano apposti. Ma io vorrei tornare principalmente a varie cose. Ecco, forse da un lato il concetto di Giuliani ha detto il concetto di riforma è un concetto non solo complesso ma lui diceva forse persino ambiguo. Io forse preferirei, ma non vorrei adesso fare una questione di linguaggio, dire un concetto che è una realtà storica suscettibile di significati analogici, perché mi sembrerebbe ambiguo nel nostro linguaggio, ma quasi sempre un detto prima equivalente. Ecco, questo dico perché non condividerei la domanda, se non era retorica, di Ulianic, ma allora secondo Iedini che cosa va riformato? Così come non condividerei la opinione di Repgen sulla meta-istoricità del concetto, perché mi sembra proprio che per Iedin non sia un concetto metastorico e di conseguenza non possa neppure avere una risposta. Ma la domanda, che è perfettamente plausibile, Iedin la gira sistematicamente alle circostanze, ai movimenti, alle persone. Io vorrei qui ricordare solo un momento due brevi saggi, secondo me molto importanti, di Iedin, quello su Campeggio, su Tommaso Campeggio, e quello su Contarini. Mi sono chiesto qualche volta, scusate, non è una domanda da professionisti, però qualche volta ci si fanno queste domande, se in fondo le simpatie di Iedin andavano più a Contarini o più a Campeggio. È difficile probabilmente rispondere con certezza, forse neppure lui avrebbe risposto in un modo secco, non ha importanza. Ma è solo per dire, ecco, è chiaro che sono due posizioni dentro la Chiesa Cattolica degli anni 40, due posizioni fortemente differenziate, potremmo al limite dire che dentro la Chiesa Cattolica sono in ordine alla riforma della Chiesa di quel momento le posizioni più polarmente opposte, anche se poi il saggio su Guidiccioni mostrava una posizione forse ancora più rigida, meno dinamica, però certamente le posizioni di Campeggio e di Contarini giocano poi al concilio molto più, mi pare, di quelle di Guidiccioni. Ora, ecco perché evoco questi due saggi, perché mi sembra che sono modelli del modo in cui Iedin affronta il problema, la domanda che formulava Ulianic, e cioè che cos'era allora riforma della Chiesa per Tommaso Campeggio. E allora attraverso l'esame degli scritti, delle posizioni, dei suoi pareri al Concilio, identifica quella certa posizione che conosciamo, che ad esempio certamente è una delle strade attraverso le quali Iedin arriva a quella conclusione di un pregiudizio a favore dell'esistente, in questo caso la Curia Romana, che certamente Tommaso Campeggi motivava in un modo non solo forte ma anche abile, certamente non banale. Anche se la posizione di Contarini, basterebbe pensare che uno dei firmatari del Demendante Ecclesia, ecco, era certamente una posizione molto più aperta o dinamica, comunque diversa, non mi interessa adesso di classificarla con degli aggettivi, ma di dire che è diversa. Era un'altra posizione, e poi ce ne sono molte altre, per carità, adesso l'esempio era puramente circoscritto, ce ne sono molte altre, per dire che mi sembra che e per questo ho insistito sulla natura in qualche modo pregiudiziale dell'atteggiamento di Iedin. Sono d'accordo che ciascuno di noi, e sicuramente anche Iedin, ha una sua Weltanschauung, ha una sua posizione, però mi sembra che, in fondo, il problema di fronte al quale ci troviamo tutti sempre, altro è una concezione di partenza che si lascia continuamente contestare e modificare dalle fonti, dai fatti storici, da ciò che è realmente avvenuto, e altro è il preconcetto. Indubbiamente qui occorre richiamare nettamente questa distinzione, altrimenti si rischia di creare dei corticircuiti. Però, poi torniamo un momento alla storia della Chiesa come teologia, perché francamente io non sono mai riuscito a convincervi di questo. Ecco. Vorrei rileggere intanto una citazione di Iedin che ho già letto prima, ma in un modo più completo. Appunto nella prefazione all'ideale del Vescovo nella Riforma Cattolica, Iedin scriveva che il Concilio di Trento, essenzialmente, prima di tutto, è stato un rinnovamento interiore della Chiesa, un suo visibile ritrovarsi, un ripiegarsi entro se stessa sui compiti da lei assegnati da Cristo, la qualcosa è sempre, in sostanza, opera dello Spirito Santo, e come tale si compie nell'intimità dell'anima umana sotto l'influsso della grazia, sottraendosi perciò alla esposizione storica. Diviene tuttavia comprensibile attraverso i suoi effetti sulla vita, e qui comincia l'opera dello storico. Ecco, io chiedo di confrontare, ad esempio, un passo come questo con le sue tesi sulla storia della Chiesa come teologia, perché francamente mi sembra una composizione non facile. Non mi interessa di sottolineare l'eventuale contraddizione di Yedin, che è certamente molto più grande di un'eventuale contraddizione, ma perché mi sembra, ecco, che il farsi poi di Yedin come storico è molto più nella direzione, come già si è detto, della netta distinzione tra un livello che certamente non solo egli non nega, ma di cui rivendica l'esistenza, il livello dei significati profondi, ma non raggiungibili dallo storico, e quello degli eventi e dei loro significati storici, che sono evidentemente l'oggetto del lavoro storico, mi sembra. Sarebbe interessante da questo punto di vista, ma anche dal punto di vista del problema che suscitava Prodi, ripercorrere, forse sarebbe stato utile per tutti noi, per me lo sarebbe stato, se fosse stato richiesto a uno di noi di ripercorrere le tappe del lavoro di Yedin dal punto di vista dei grandi blocchi di argomenti. Perché certamente io ho l'impressione, ma è solo un'impressione, che ci sia un certo itinerario dalla storia della teologia che ha in un certo senso il suo apice e anche il suo punto di passaggio poi nel Seripando, alla storia di Trento come fatto politico, istituzionale, anche teologico, ma certamente come grande evento storico, ecco, poi al manuale, all'Atlante, che pure non considererei un fatto puramente editoriale, e al progetto, al desiderio della storia della storiografia ecclesiastica. Mi chiedo se questo è solo una cronologia o se una riflessione su di essa non induca anche a comprendere meglio e in un modo più storicamente adeguato il problema sia del rapporto nella sua opera tra storia della Chiesa e storia del cristianesimo, sia il rapporto tra teologia e storia della Chiesa. Quanto alla fede dello storico, certo che è sempre invocata come la verifica del discorso sulla storia della Chiesa. Ecco, io credo qualche volta in un modo che mi lascia un poco perplesso, perché suppone, ecco, una etichetta esterna, e francamente allora è un fatto puramente di aggregazione societaria, o suppone quello che dice, cioè il riferimento all'esempio della fede e l'esperienza di molti, certamente la mia, è che è così difficile sapere se si crede o se non si crede, è così difficile sapere se si è fedeli o infedeli al dono della grazia, che una qualifica di credente o di non credente è sempre estremamente precaria. Ecco, io penso solo, comunque in concreto, di nuovo uscendo dall'astratto, che il rapporto così intimo, così profondo, non solo amicale ma anche professionale, di Yedin ad esempio con un uomo come Cantimori, potrebbe essere preso a riferimento in un modo poi molto concreto per smitizzare questa problematica del rapporto tra fede dello storico e storico. Io ho l'impressione che Yedin, ecco, faccia più, se volessi dire, meno forse storia della Chiesa cattolica e più storia della Chiesa da cattolico, che è forse un po' diverso. Un piccolo intervento per Tommaso Campesi. Sono stato sollecitato appunto da discorso, faccio una piccola confessione qui veramente, perché del caso Campeggio ne abbiamo parlato molto con Yedin, che era molto interessato alla personalità di quell'uomo. E mi sollecitava per anni a fare un lavoro complementare al suo sul Campeggio, appunto che trattasse a fondo il tipo di attività svolta dal Campeggio o non svolta dal Campeggio nella sua condizione di vescovo di Feltre. Siccome la diocesi di Feltre arrivava fino a forse 5 km dal posto dove viviamo, comprendeva tutta la Valsugana, insomma conoscevo anche certe cose abbastanza minutamente. Ecco, Iedin ragionava così. Per me il giudizio sul cantesimo, in ultima analisi, dipende ben dal tipo di attività pastorale che lui ha svolto o non ha svolto. E per questo legava grande importanza al fatto che io facessi questo lavoro. Confesso anche che forse l'ho un pochino tirato in, direi in errore, l'ho tirato in parte, in sbaglio io. In questo senso, io ricordavo, ricordo tuttora, degli atti visitali del campeggio che sono conservati nell'archivio di Feltre e sono molto abbondanti, molto consistenti, provano una sua presenza visitale anche in parrocchie, in chiese minime, e un suo interessamento a cose molto minute della vita della sua chiesa, e si inquadrano in una attività riformatoria dei vescovi della piccola diocesi di Feltre di quel tempo, che nettamente si differenzia, per esempio è infinitamente più positiva che quello che succedeva a Trento, per esempio, nei medesimi anni. Ecco, questo io lo testimoniai, no? Più in là io stesso non sono arrivato con l'indagine e non so che cosa da uno studio più approfondito a proposito appunto di Tommaso Campeggio riformatore nella diocesi di Feltre, cosa ne potrebbe venire fuori come giudizio sintetico. Io lo studio sul Campeggio fino ad oggi non l'ho potuto fare, e Iedin a un certo punto mi ha detto che lui, il suo lavoro sul Campeggio sostanzialmente da parte sua, ce l'aveva matura e lo pubblicava. Qualche cosa di questa circostanza lui fa presente in una nota del libro sul Campeggio. Ecco, mi sento di doverlo dire perché sono stato parte in causa e forse appunto è mancato questa dimensione per poter dare a lui e a noi l'ultimo metro di giudizio in caso del campeggio. Grazie. Il professor Bolgiani. Un momento ancora su questa questione del rapporto della storia della Chiesa con la teologia secondo Iedin. Vediamo di rovesciare un momento la domanda. In che misura per Iedin un non credente poteva fare storia della Chiesa in modo autentico? Che cosa mancava eventualmente allo storico non credente che facesse una storia della Chiesa? Gli mancava forse una comprensione del fatto storico come storico, cioè del fatto storico della Chiesa nelle sue motivazioni non meno apparenti, oppure le mancava la comprensione del fatto storico come valenza teologica del fatto storico? Perché nella misura in cui, ecco, domando veramente, è una vera domanda proprio per in cui Iedin ritiene che una storia del cristianesimo possa essere una storia, come dire, come nel senso della storia delle religioni, come esiste una storia del buddismo, una storia dell'islam, una storia dell'induismo, così una storia di quella religione che complessivamente si è chiamata il cristianesimo. Ecco, in che misura allora pensava che una storia del cristianesimo, come del buddismo, dell'islam, potesse essere una storia, come dire, in certo senso esterna, non direttamente partecipata a questo, perché questo è il medesimo problema, in un certo senso si riproduce in certe correnti attuali di storia delle religioni, soprattutto gli americani e gli orientali, che giudicano che in un certo senso sia fattibile, ritorno a un vecchio problema, che sia fattibile per esempio una storia dell'Islam solo da chi in certa misura partecipa, cioè questo criterio della partecipazione dell'osservatore partecipante. Quindi questa distinzione, che mi pare rimanga sostanzialmente un enunciato, e non mi pare che sia stata ulteriormente approfondita, le possibilità esplorate, le possibilità di una storia del cristianesimo, diciamo, profana, se vogliamo, non partecipata. In che misura allora, tornando a questo, al problema del rapporto, del rapporto storia della Chiesa a teologia è un problema veramente che prosegue nell'opera di Iedin, che ha degli aspetti molto concreti, o in che misura rimane una di quelle, in certo senso, dichiarazioni iniziali, che la stessa collocazione della disciplina nell'ambito delle facoltà teologiche tedesche in certo momento domandava, esigeva, ecco, ma di cui personalmente mi domando fino a che punto non ha avuto più un'esperienza di natura esistenziale, propria, personale, quasi incomunicabile, che non invece di farla diventare un criterio storiografico. E quanto allora all'altro aspetto, quindi una domanda a Alberigo, il concetto di riforma, ecco, ma direi ad Alberigo nelle osservazioni che gli ha fatto Redker, riforma come modello storico, ritornante nelle differenti situazioni, o riforma come concetto metastorico? Ma concetto metastorico cosa vorrebbe dire in questo caso? Concetto teologico? E un concetto teologico è metastorico? Sì, sì. Ja, also wir haben ja schon mehrfach darüber gesprochen, muss der Kirchengeschichter gläubig sein oder muss er sich, wie Herr Ganser sagt, auf den Standpunkt stellen, an den Gesichtspunkt des Theologen, der seinen Gegenstand unter dem gläubigen Aspekt sieht, dass hier es um die Kirche Jesu Christi handelt. Iedin fragt, woher weiß ich überhaupt, welche der vielen Kirchen, die sich als Kirche Christi bezeichnen, die wahre Kirche Christi ist? Doch nur durch den Glauben an die Kirche. Woher weiß ich, dass die katholische Kirche ihre Identität und ihre Kontinuität durch ihre Jahrhunderte gewahrt hat? Dass die Reichskirche zur Zeit des Athanasius und Augustinus dieselbe ist wie die Urgemeinde in Jerusalem, auf die beim ersten Pfingstfest der Heilige Geist herabkam. Dass wiederum diese Reichskirche dieselbe Kirche Christi ist wie die Papstkirche Innozenz des Dritten. Die römische Kirche der Zeit des Tridentinums und die Weltkirche des 20. Jahrhunderts. Also hier ist ja ganz klar, dass hier Geschichte getrieben wird unter diesem gläubigen Gesichtspunkt, und auf diesen Standpunkt kann sich ja, wie Herr Ganser schon ausdrückt, auch ein Ungläubiger, ein Nichtglaubender stellen und unter diesem Gesichtspunkt dann Kirchengeschichte treiben. Aber Iedin würde sagen, um Kirchengeschichte handelt es sich erst, wenn ich diesen Gesichtspunkt in meine Betrachtung hineinnehme. Also Kirchengeschichte hat nicht nur ein theologisches Materialobjekt, sondern auch ein theologisches Formalobjekt. Gar nicht anders, das ist seine Meinung, das ist auch allerdings auch meine. Ich möchte nur noch kurz zur Frage, was meint Iedin und was meint Iedin nicht. Ich warne davor, abgesehen von dem, was Iedin selbst im Handbuch der Kirchengeschichte geschrieben hat, den Inhalt des Handbuchs der Kirchengeschichte mit der Meinung Iedins zu identifizieren. Ich warne davor. Ich kenne Iedins Tagebuch. Die Zeit ist jetzt doch nicht da. Vielleicht wird sie später einmal kommen. Wenn ich dann die Urteile Iedins über die Beiträge in seinem eigenen Handbuch publizieren würde, dann würden sich manche sehr wundern. Ich werde das nicht tun, ehe alle tot sind, über die dort etwas geschrieben ist, denn bei einem solchen Handbuch ist man letztlich auf das angewiesen, was kommt, und das ist also mit mancherlei Unzulänglichkeiten belastet. Ich würde also sagen, weniger von dem Handbuch her das Problem angehen. Aber wenn ich, Sie haben mich gefragt, was ist eigentlich Geschichte? Wenn ich es formulieren soll, ist Geschichte alles das, was sich mit Hilfe der historischen Methode verifizieren und falsifizieren lässt. Und das ist sehr wenig. Das ist sehr wenig. Weder die Fragestellung, ich wiederhole es, noch die Auswahl der Begriffe, noch die Entscheidungskriterien, nachdem ich sage, jetzt höre ich auf und gebe das Buch in den Verlag oder den Aufsatz, noch das Urteil, sind qua Urteil, qua Auswahl ausschließlich historische Methode. Das Einzige, was ich sagen würde, all dieses Metahistorische muss sich von der historischen Methode her prüfen lassen dürfen, und zwar auf seine Widerspruchsfreiheit, also nur negativ. Und alles andere gehört notwendig zum sich erinnern können des Menschen, ist als solches aber nicht von der historischen Methode her belegbar. Ich will es an einem Beispiel aus der Profangeschichte sagen. Die Profangeschichte ist im Wesentlichen angewandte Anthropologie, und zwar des Einzelnen und der Vergesellschaftung des Menschen. Angewandtes Menschenbild. Über die Richtigkeit oder Unrichtigkeit eines Menschenbildes kann ich historisch nicht entscheiden. Ich kann höchstens historisch berichten, welche Folgen und Konsequenzen das Menschenbild A und das Menschenbild B gehabt hat. Das heißt also, ich würde nicht sagen, die Auswahl des Menschenbildes ist willkürlich, nur die Rechtfertigung kommt nicht qua Historie. Und der Punkt, an dem das zurzeit in Deutschland am stärksten diskutiert wird, ist ja die Frage, inwiefern ist Marxismus oder historischer Materialismus nützlich für Geschichtserkenntnis. Und da zeigt sich immer wieder, der Marxismus, auch die Frankfurter Schule, also ein Teil des sogenannten kritischen Theorie, tritt ja mit dem Anspruch auf, metahistorische Inhalte historisch qualifizieren, also wissenschaftlich qualifizieren zu können. Und immer wenn es darauf ankommt, stimmt das nicht. Das lässt sich nicht qualifizieren. Das ist der eigentliche Kern dessen, wo dieses Argument nicht zieht. Aber ich wiederhole noch einmal, dass wir, was wir Historiker als Historiker, nämlich methodisch beweisbar und methodisch mit unseren Methoden beweisbar und widerlegbar, ist sehr gering. Sehr gering. Ich glaube, wir sind jetzt. Soltanto che il metahistorico di queste altre discipline, come possono essere l'antropologia, la psicologia, la sociologia, hanno un regime totalmente diverso da quello che ha la teologia, che attinge è un metastorico di altra natura. Scusi, signor Niccolò, ma adesso fra poco dobbiamo chiudere. Sì, no, è solo una domanda, due domande, molto semplici. Nella relazione ai vescovi italiani del XX secolo, Cantimori fa presente, ovvero dal punto in cui si trova, che l'Europa non conosce un risvolto profondo della storia, della storia del cattolicesimo. Secondo la storia del cattolicesimo, questa prospettiva, questa affermazione, deriva dal fatto che Cantimori aveva davanti a sé l'opera dei Lucchetti o da altri scrittori. La seconda domanda, la traduzione in italiano del termine di forma, sono raccolte tedesco, però, come procedete in via Trento, si è lamentato, io non ho conosciuto in via Trento questo genere, si è lamentato più volte dicendo che le traduzioni non corrispondono alle traduzioni dell'inglese, non è vero, ai suoi scritti originali. Può darsi che anche usare il termine di forma in italiano non corrisponda a quel che è l'insieme dei significati che il termine di forma può avere nella lingua tedesca. Dunque le pregiudiziali sarebbero queste. 50 anni fa io frequentavo qui la scuola del liceo classico qui di Trento ed eravamo profondamente entusiasti da un articolo di Papini con parte di processo dal titolo Il Croce e la Croce. 30 anni dopo, nel 60, compare questa preparazione che a mio giudizio è una risposta per l'articolo di Papini, non è vero? Nel senso precisamente di dare ragioni a Papini nei confronti di Croce. Il problema prima sollevato, non è vero? Per quanto riguarda il termine di forma, a mio giudizio il concetto, siccome si è posto in confronto con le rivoluzioni, il concetto della Chiesa di per sé è un concetto che comporta una rivoluzione incruenta e continua, e quindi si trasferisce più in termini di rinnovamento che non di riforma. Il termine rinnovato è stato abbastanza provato di battaglia, abbastanza usato, non è vero? E quindi non so se veramente sia preferibile forse un qualche altro termine. Tengo a precisare anche questo riguardo una pregiudiziale teoretica, ed è questa, che possiamo, la distinzione normalmente accettata, ovvero che altra cosa sono i principi dell'attività di pensiero e altra cosa è il discorso. Non possiamo riformare, rinnovare, rivoluzionare i principi, dobbiamo effettivamente rinnovare il discorso. Però noi ci troviamo a Bergamo, penso che purtroppo sia venuto in luce anche questo aspetto, davvero recentemente, davvero, ci troviamo in una situazione nella quale si materializza tutto, vero? E quindi se noi materializziamo il principio, come succede nella logica simbolica, è chiaro che anche il principio può essere riformato, vero? Mentre se noi ci riportiamo all'autentica natura del principio, comprendiamo come il principio sia presente non solo nel discorso, ma in tutta l'attività del pensiero. Così se la Chiesa è veramente quello che è, un principio, vero? È presente non solo nell'anima, ma anche nei fatti. E quindi è possibile una teologia, credo, in senso molto ampio è possibile. Perché la storia va bene che è fatta di fatti, ma il fatto è particolare contingenza, c'è la contingenza del fatto e c'è la ricchezza di implicanze. Quindi sono dei significati. E dei significati si possono essere trasformati, ma se conta delle ricche e delle contingenze. Tante grazie, io credo che adesso è il tempo di chiudere la discussione.